9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno, buon martedì 28 di agosto da Oscar Giannino, bentornati qui alla versione di Oscar. E in questo martedì noi ci occuperemo anche oggi in diretta dalla centrale di Dro, da questa kermesse Vedrò, che da un po' di anni ci vede la mattina qui alla versione di Oscar e poi il pomeriggio con la Zanzara e di Cruciani e Parenzo, andare in diretta da questa kermesse che noi scegliamo come punto di riferimento con cui incontrare gente di aree culturali, ascendenze, professioni diverse, e che da un po' di anni, è l'ottavo anno che si organizza questa kermesse. Enrico Letta, che è vice segretario del PD, ha avuto però il merito di organizzare quando nell'Italia dello scontro tribale ha deciso di far confrontare persone che venivano da mondi, esperienze, culture diverse, facendoli confrontare sullo stato di anno in anno dell'economia, dell'impresa, della finanza italiana, e rispetto a un programma di che fare che non fosse, per così dire, contrassegnato dalla barbarie muscolare dello scontro curva sud, curva nord, che è un po' stata la peste dei 18 anni che abbiamo alle spalle e che, a giudicare dagli ascoltatori, che i messaggi che mandano, talvolta mi sembra che ancora continui a contagiare molti di voi birbantelli. E come sapete, il secondo giorno in cui siamo in diretta, per noi è diventato un appuntamento tradizionale quello di parlare dell'osservatorio sulle imprese che ogni anno qui viene presentato al pubblico delle centinaia di persone che si trovano a Vedrò, e che quindi questa mattina vedremo nella versione aggiornata. Per chi è così fedele ascoltatore, cercate di essere fedeli ascoltatori, da ricordare che l'anno scorso esattamente la stessa persona che adesso vado a presentarvi ci illustrò il tema dell'anno scorso. Ricordate che il tema dell'anno scorso si focalizzava, insomma, sulla difficoltà terribile di farci. Cioè, adesso c'è un approfondimento ulteriore. Stiamo parlando delle imprese eroi. E intanto, prima di approfondire e di presentarvi i nostri quattro ospiti che abbiamo qua, due pillole. Perché continuiamo anche oggi a giudicare che Jim Morrison, l'immortale, per quello che mi riguarda, sia ancora una buona linea di apertura. Se guardate sui giornali di oggi, troverete che oggi, giorno che precede la visita di Monti ad Angela Merkel, Monti dovrà anche andare dal presidente Hollande prima del 6 settembre il Consiglio europeo della Bundesbank. Ricordo che poi il 12 settembre l'appuntamento è quello degli 8 giudici della Corte Costituzionale tedesca. Questi sono i due appuntamenti che tengono i mercati in tensione, ma i mercati ieri hanno rivisto alcune dichiarazioni, come quella del membro del board della BCE Asmussen, tedesco, che ha smentito Weidmann, il capo della Bundesbank, che hanno fatto pensare ai mercati che tutto sommato si potrebbe pensare per una volta più in positivo che in negativo. Poi un'altra notizia, come vedete, è lo sviluppo di quello che avevo annunciato ieri, dell'intenzione attribuita da Der Spiegel al cancelliere tedesco di pensare a un vero e proprio nuovo trattato da mettere al centro della prossima campagna elettorale tedesca per sbollire l'antieuropeismo che sta un po' attraversando tutti gli schieramenti. Viene confermato perché c'è un gruppo di lavoro franco-tedesco di cui oggi tutti i giornali europei danno conto, che sarebbe insieme al lavoro per verificare le tappe future. Anche questa è una buona notizia. Invece, sulle notizie della politica interna, ieri secchio d'acqua ghiacciata sul primo incontro sulla riforma elettorale di cui abbiamo parlato con Enrico Letta. Per chi fosse interessato, trovate sul sito di www.fermareildeclino lo sviluppo dei primi tre punti nostri su come si taglia debito pubblico, spesa pubblica e tasse, ed è un documento che ha elaborato il professor Sandro Brusco. Trovate anche un mio articolo sugli errori da evitare sulla cessione del patrimonio pubblico e su come farla, invece, che sono oggi stati pubblicati su Mattino, Gazzettino, Messaggero, ma trovate anche sul sito www.fermareildeclino.it. Fine dell'inizio di trasmissione e andiamo a presentare gli ospiti. l'autore, coautore, ma insomma poi è lui che lo illustra, della versione annuale di questo Osservatorio sulle imprese, è sempre il professor Marco Zanotelli, che insegna econometria all'Università di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Poi abbiamo a testimonianza, e per animare un bel confronto, e vi dico che ci saranno pillole interessanti, è con noi Barbara Labate di Risparmio Super, è un'imprenditrice nel ramo internet, diciamo così. Sì. Ecco, quindi stiamo parlando di tecnologia avanzata, e con noi Franco Baronio, che avete già sentito di Bain. Buongiorno. Buongiorno a tutti, Giannino. Per sentire insomma l'opinione di chi fa consulting intorno a un tema, quello della capitalizzazione della dimensione delle imprese italiane. E poi una pillola interessante a cui arriveremo tra poco, Paolo Uccellini di InnoGest, qui quindi stiamo parlando del venture capital, di chi attrae, organizza e gestisce anche fondi per la partenza, gli start-up delle imprese. Buongiorno e grazie anche a Paolo Uccellini. Buongiorno, buongiorno. Allora, Marco Zanotelli, allora, quest'anno il focus si restringe sulle imprese che hanno gli occupati, perché? Sì, beh, effettivamente quanto più di oggi c'è proprio necessità di capire i fenomeni che avvengono, e quindi diciamo il sistema imprenditoriale italiano è il futuro, e quindi dobbiamo comprenderlo al meglio. Abbiamo intitolato diciamo il focus di quest'anno L'impresa che vedrò, focalizzandosi sulle nuove imprese, sulle imprese che aprono, che hanno avuto il coraggio di aprire nel 2011. Ecco gli eroi, cioè capite, quelli che addirittura aprono e sfidano il fatto che purtroppo nel saldo stiamo andando in diminuzione, un saldo molto forte. La vitalità delle imprese resta apprezzabile, anche se in diminuzione, questi aprono. Sì, devo dire, allora, un dato, ovviamente questo dobbiamo sempre tenerlo presente, abbiamo una produzione industriale che è almeno 20% rispetto al 2008, partiamo da questo dato. Questo dato però è il più negativo, diciamo, in realtà. Poi tutto il resto invece ci sono forti luci che si stanno evidenziando. La vitalità del sistema imprenditoriale c'è, questo lo vediamo da tutte le cose, da quello che sta avvenendo, eccetera. Diciamo, il focus di quest'anno, già l'anno scorso noi presentammo il manifatturiero, fummo antesignani, esatto, su questo. La difesa del manifatturiero era la linea dell'anno scorso. Esattamente, fummo antesignani perché poi dopo si parlò molto di manifatturiero, in realtà anche con una dizione non sempre corretta, cioè legandola all'economia reale, l'economia reale è tutta, però diciamo, il manifatturiero, il focus dell'anno scorso creò un dibattito poi successivo. Quest'anno invece vogliamo ragionare sulle nuove imprese, imprese che nascono. Devo dire subito che uno degli elementi fondamentali è che le nuove imprese che nascono con un sistema dualistico, cioè quelle sul mercato domestico e quelle rivolte verso l'esterno. Quelle rivolte sul mercato domestico sono quelle che soffrono di più ovviamente adesso, e soffriranno anche nei prossimi 2 anni. Invece quelle che lavorano sul mercato internazionale hanno una evoluzione addirittura con fatturati anche 8 volte rispetto a quelle tradizionali. Questo diciamo non dobbiamo mai dimenticarlo. Ricordiamo un secondo, Marco, quant'è il totale sul totale delle famose più di 5 milioni di imprese italiane, di coloro che hanno i dipendenti? Assolutamente, questo è il dato importante del focus di quest'anno, quindi 1,5 milioni di aziende. Noi abbiamo 1,5 milioni di aziende che hanno dipendenti. Diciamo, no? Imprese con dipendenti. Questo non significa non tenere in considerazione chi fa autoimpresa, però guardate, voi che siete in ascolto, non prendetevela, purtroppo nel saldo negativo delle imprese bisogna tenere conto anche che molte delle posizioni nuove di impresa che si aprono sono autoimprenditori, per così dire, di gente che ha perso il posto di lavoro, quindi è una cosa diversa che considerare le imprese vere. Per quanto naturalmente il rispetto va a loro che ci provano. Assolutamente sì, e direi che allora se possiamo fare questa suddivisione proprio velocissima, abbiamo una sorta di accuserei la di End dei Doors. Ecco. Farei una forzatura su questo famoso capitalismo molecolare, lo dobbiamo dare per morto. Oh, formula derridiana per capirci, anche se il professor Zanotelli non vuole dirlo, lo dico io per capirci, qui c'è un siluretto a un criterio di lettura dell'evoluzione del mercato italiano che da decenni insomma indica il capitalismo molecolare, la formula che teneva. Anche Arnaldo Bagnasco non sarebbe d'accordo. Così, purtroppo è così. E devo dire che però vorrei spezzare una lancia a favore delle piccole imprese, perché non nacquero solo per un imprenditore, diciamo, volontà personale, ma nacque anche per la grande impresa. Fu la grande impresa a volere le piccole. E c'è una bellissima frase di Valletta che noi abbiamo messo quest'anno, sì, citata, in cui si dice che se la grande impresa non avesse fatto le piccole, se le piccole imprese non fossero nate, l'avrebbe creata la grande impresa. Diciamo, per esternalizzare alcune cose, che se le cose vanno un po' peggio, quando bisogna ristrutturare, se la vede il piccolo quindi imprenditore, diciamo perché è ovvio. Non è che dico. Diciamo che in qualche modo il capitalismo molecolare muore, ma noi siamo viva sempre le piccole imprese, noi possiamo dire da questo punto di vista. Un piccolo cenno, le avanguardie, quello diceva lei prima, cioè le imprese che riescono a internazionalizzare, le altre sono imprese di necessità. Ricordiamoci sempre questo dato, quasi il 40% delle imprese che nascono oggi nascono per necessità. Ma quante ne sono nate dal 2011? Allora, noi abbiamo... sempre con dipendenti? Sì, complessivamente circa 200.000 imprese che nascono. Siamo 219.000 nel 2007, ne nascono un po' meno, ma eroi, diciamo, ce ne sono stati 180.000 nel 2011 che hanno investito, un'impresa nata, attenzione, non singola, con dipendenti. Con dipendenti. Quindi qui c'è un investimento che viene fatto, ovviamente un business plan, un piano, un progetto di vita. Quindi da questo punto di vista ecco perché l'Italia ha una forte capitali vocazione. Vuol dire che c'è ancora capacità, diciamo, addirittura di avere garanzie reali per avere investimenti, eccetera, eccetera. Sì. 180.000, io ricordo a tutti coloro che sono in ascolto che i dati del saldo negativo del 2012 di cui siamo in possesso oggi sono ancora solo quelli del primo trimestre, erano circa 26.000 imprese in meno del primo trimestre, diciamo che stavamo andando su un ritmo di 100.000 come saldo negativo. Tenete conto che questo saldo negativo, ripeto, dovete considerare che molte delle nuove posizioni di apertura dell'impresa sono in realtà autoimprenditorialità da disoccupazione, come dicevamo prima. Ma rispetto a questo saldo negativo in corso di formazione nel 2012, 180.000 nel 2011 hanno aperto con dipendenti. Esattamente, e con una creazione di posti di lavoro di circa 500.000 posti di lavoro nuovi, creati dalle nuove imprese. Questi sono, sì, sì. Il focus nostro è sulle nuove imprese, i lavoratori delle nuove imprese e non delle altre. Allora, aspetta un secondo, prima di andarci a parlare dei settori, eccetera, eccetera, a questo punto facciamo un flash, perché stiamo parlando di nuove imprese, nuovi settori con occupati. Io chiederei a Paolo Cellini di Innogest, l'abbiamo già presentato, qui stiamo parlando di venture capital, di come si danno capitali a chi ha idee e buoni business plan, ha bisogno di capitali per organizzare innanzitutto la sua impresa, di cui però c'è già un esperto capace di metterci finanza, perché valuta che sia un buon prodotto, c'è un buon business plan, c'è bisogno di investirci sopra. Ecco, cosa succede? Lo Stato, anzi, l'agenzia tributaria, come si rivolge a questo tipo di impresa? Racconta un esempio. Sì, così introduco brevemente. Noi guardiamo non meno di 500 proposte di investimento all'anno e il tasso di investimento internazionalmente è il 2-3%. Facciamo 4-5 investimenti. Innogest in Italia è uno dei maggiori attori di questo tipo del settore. È un settore molto piccolo in Italia, che come dire, dovrebbe essere molto più potente. Ecco, tanto per dare un raffronto, Israele, che è un paese grande più o meno quanto il Lazio, ha 10 volte le capacità di fuoco di investimento e crea... Parliamo di capacità di fuoco su Israele di questi tempi, perché tende a equivocare poi. Esatto. Però è sicuramente un settore che tra l'altro dà occupazione molto qualificata. Uno degli elementi chiave per investire è la qualificazione del team, le sue capacità anche di esportare, di andare all'estero, di parlare inglese, gli studi effettuati. Quindi è un settore che dà occupazione altamente qualificata. Gli investimenti vengono fatti quindi rispetto al team, al business plan, all'innovazione tecnologica. Tipicamente il venture capital investe in aziende che non hanno un mercato attuale, forse ce l'avranno perché devono sviluppare un prodotto, devono inventarsi letteralmente un mercato, è qualcosa che non c'è, certo. Si chiamano startup cosiddette scalabili high tech, perché appunto possono inventarsi qualcosa che avrà un futuro brillantissimo. Ma il presente, che può durare anche diversi anni, è estremamente incerto e sicuramente è una delle caratteristiche che dentro il venture capital viene chiamato burn rate, è la capacità appunto che noi investiamo in questa azienda è di bruciare il capitale, perché non hanno profitti e non hanno neanche fatturato spesso. Per definizione si stanno organizzando per averlo. Perché sviluppano, esatto, il prodotto, sviluppano il mercato, allargano il team, aprono sedi all'estero e quindi perdono essenzialmente, intrinsecamente, le start-up perdono, altrimenti il venture capital non esiste. Esattamente. Purtroppo, ecco, veniamo al punto, noi abbiamo circa 20 start-up finanziate nei settori internet, biotech, eccetera, basati su selezioni rigorosissime, e la stessa Innogest è fortemente controllata dallo Stato tramite la Banca d'Italia, perché è un SGR, quindi è sottoposta. Noi poi facciamo questi investimenti estremamente rigorosi, processi complicati, CDA, eccetera, eccetera, perché noi usiamo dei soldi di terzi, tra l'altro investitori, banche, quindi è un processo oggettivamente e necessariamente rigoroso. E niente, poi che succede? Succede che spesso queste aziende per un anno, per due anni, per tre anni non fatturano o perdono tanti quattro. E questo l'abbiamo detto. E allora l'Agenzia delle Entrate ha fatto succede top e che dice... purtroppo è uscita una normativa che stabilisce che tutte le aziende che non fatturano o che comunque non hanno, come dire, fatturati interessanti vengono dichiarate a priori società di comodo. La società di comodo viene individuata, adesso io non sono un fiscalista, come un'azienda dove potenzialmente, per semplificare, uno mette lo stipendio della zia, della nonna, o la macchina potente, o la barca, non lo so, adesso sto immaginando, non so bene che cosa ci si possa andare a scaricare. È evidente che sono due tipologie di utilizzo delle aziende radicalmente differenti. Noi stiamo cercando in questo caso, traduco, l'Agenzia delle Entrate immagina che non essendoci né ricavi né utili, e quindi essendoci una posizione debitoria che configura un credito fiscale, il credito fiscale sia una maniera semplicemente per abbassare il tax rate reale di chi crea l'impresa, cioè è una specie di scudo per eludere. Tenete conto che nella legislazione italiana questo tipo di cosa è penale, per capirci, oltre che reato amministrativo fiscale ovviamente. Quindi che cosa succede? Che tutte queste piccole aziende, che tra l'altro sono fatte da pochi specialisti, normalmente dei tecnici, no? Cioè noi prendiamo le persone che conoscono bene dei segmenti, microsegmenti, non dei fiscalisti o delle persone appunto che comprano barche o altre cose, no? Sono dei laureati, PhD, cioè gente molto qualificata. Di colpo si deve trovare un commercialista che li assistono a introdurre una procedura che non conoscevo, che si chiama interpello. Cioè devi produrre tutta una serie di documentazioni per giustificare che tu non hai fatto fatturato, ma non sei una società di comodo. Perché, come al solito, ricordo che in ascolto una delle caratteristiche del nostro luminosissimo sistema di contenzioso fiscale è quello dell'inversione dell'onere della prova. Lo Stato, convinto dalla giurisprudenza di Corte di Cassazione e di Corte Costituzionale di avere sempre ragione, ti dice: dimostrami tu, caro start-upper tecnologico, che non sei un miserabile elusore ed evasore, dimostramelo tu, perché altrimenti la tua società, ma quale start-up, ma quale venture capital di società internazionali con tanto di obblighi, di compliance, come sono tutti gli intermediari verso la Banca d'Italia, bla bla bla, tu sei un miserabile evasore, dimostrami che non è vero. E quindi troviamo queste persone che ci vengono anche a chiedere aiuto, no? Noi che tra l'altro noi siamo particolarmente attrezzati per operazioni fiscali, eccetera, ovviamente. Perché diciamo che non è il vostro mestiere. Non è il nostro mestiere, e dobbiamo cercare di, come dire, aiutare queste aziende che spesso si ritrovano in situazioni anche tra l'altro difficili, perché a volte l'interpello va bene. E a volte è capitato, mi parlava ieri, di un caso in cui una società di questo tipo si è trovato con l'interpello respinto e dovuto pagare. Sì, che adesso appunto stanno lì che non sanno se fare causa allo Stato, se pagare domani mattina. Auguri. Più però con, come dire, immagino le tasse ulteriori per ritardo di pagamento, eccetera. Ecco, il mio commento a questa cosa è molto semplice. Io ho vissuto tanti anni all'estero, perché sono stato tanti anni in Disney. Se qualche venture capitalist esterno, se vogliamo attrarre capitali dall'estero, qualcuno viene a sapere che, come dire, società... No, qualcuno viene a sapere. Cose simili ovviamente vengono risapute dagli attori del mercato. In Italia lo Stato tratta le start-up tecnologiche come banditi. Allora, voi dite che io urlo sulle questioni fiscali, ma urlo di fronte a cose come queste che contribuiscono a rendere l'immagine del nostro paese un'immagine intollerabile, cioè ostile all'idea di fare un'impresa, di farla con tutto il rispetto delle regole, oltretutto. Paolo Cellini, naturalmente tu non devi dare giudizi di questo tipo, il compito mio è quello di essere un po'... Io dico solo che, visto che parliamo e ci riempiamo la bocca di giovani e imprenditoria giovanile, visto che ci parliamo di qualificazione, non portare dentro in Italia soltanto, come dire, per persone, diciamo, magari non necessariamente altamente qualificate, forse un qualche sforzo si potrebbe fare. Mi viene anche un'idea anche banale, per essere un po', come dire, positivi. Ma visto che queste aziende sono finanziate da organismi già controllati dallo Stato, certo, forse potrebbero avere intrinsecamente un'esenzione. Questo significa fare una scommessa sull'efficienza e la buona fede, che l'amministrazione pubblica, finché sarà così assetata di incassi, purtroppo tutte le evidenze sono che questo giro di vita di cui sono figli questi tipi di contestazioni alle start-up, che io conosco solo da un anno e mezzo a questa parte, perché prima non si verificavano, dipendono dalla sette del tossicodipendente Stato. E nell'ultimo anno e mezzo c'è anche questa novità. che nel settore del venture capital molte delle società in partenza si trovano all'Agenzia delle Entrate. Io avevo esempi a Como, in Triveneto, quest'altro invece è capitato a Milano, mi stava dicendo, e questo è l'effetto proprio di la sete di cassa, per così dire. Quindi speriamo che presto possiamo tornare a un'amministrazione tributaria capace di ricordarsi e di capire che cos'è una startup tecnologica invece di considerarla un trucco della mafia. Ma io voglio anche vedere, diciamo, che forse c'è anche poca conoscenza di questi fenomeni, non particolarmente diffusi in Italia. Ho capito, però neanche tali da configurare eccezioni tali per cui non sappiamo di che si tratta. Voglio dire, temo di essere più convinto della malafede più che convinto dell'ignoranza, per così dire. Anche perché, come lo Stato ci dite che nemo censetur ignorare legge, come cittadini nessuno di noi può addurre l'ignoranza per non rispettare una legge, un regolamento, e tanto più dovrebbe valere per lo Stato. Ecco, cioè io non me la sento di dire che lo Stato ha qualche diritto a ignorare che cos'è il venture capital. O meglio, forse lo Stato italiano questo diritto se lo prende, infatti vediamo come va lo sviluppo. Torniamo, grazie a Paolo Cellini, con Innogest, una speranza che gli investimenti che fa Innogest in Italia non trovino, diciamo, uguale attenzione da parte dell'agenzia tributaria dovunque, perché forse è il caso di rafforzarlo questo settore. Torniamo con Marco Zanotelli. Eravamo arrivati ai settori di questi 180.000 euro, 500.000 nuovi dipendenti di queste imprese nuove. In che settori stanno? Ma diciamo, allora, questa è la novità di quest'anno, diciamo, dell'analisi, eccetera. Stanno nei settori tradizionali, quindi tutta quella dinamica, quella logica del cambio di specializzazione, in realtà c'è un ampio dibattito nel paese, no? Sul fatto che in effetti si considerano dei settori maturi e quindi, diciamo, che avrebbero finito la loro spinta. Noi vediamo che in realtà questo non accade. Abbiamo ovviamente, registriamo però, diciamo, delle contrazioni, ovviamente. Quali sono i tassi di natalità più elevati? Beh, li ritroviamo ad esempio nel servizio alloggio e ristorazione, li ritroviamo paradossalmente nelle costruzioni. Questo ci dice un'altra cosa, molto importante. Cioè, nascono queste imprese, c'è volontà di fare impresa, però non spesso l'impresa non dura più di 3 anni. Quindi qui c'è un discorso di assistenza e tutta una serie di logiche che vanno di pari passo. Servizi sociali, eccetera. Medi tassi, quindi diciamo che, attenzione, siamo sempre oltre il 10%. Sì. Se noi confrontiamo questo dato anche a livello europeo, noi vediamo che è buona la natalità. Il problema è l'accompagno delle imprese, come vanno avanti. Commercio, bene, attività professionale, eccetera, meno bene o il manifatturiero, perché si sta, lo vediamo, sono dei dati incredibili. Allora, se noi vediamo il 2010 e il 2011, nel 2010 il manifatturiero... Attenzione che subito gli ascoltatori dicono, come bene commercio? Qui stiamo parlando del tasso di natalità, sì. Non stiamo parlando del saldo. No, il commercio naturalmente ha un saldo che è tra i più negativi, perché ovviamente la parte del mercato domestico, la premessa ricordata da sempre, è quella che sta soffrendo di più rispetto a chi esporta. Certo. Però quello che importa rilevare è che a fronte di un salto negativo molto forte nel commercio c'è anche un tasso di nascita di nuove imprese che resta molto forte. Ed è questo che noi stiamo osservando, perché, diciamo, al di là del saldo ovviamente importante, eccetera, sul quale tutte le informazioni vanno, quella sulla quale meno si lavora è proprio sulle nuove nate, su quello che sta accadendo adesso, sulle nuove imprese. Vediamo un dato interessantissimo del manifatturiero. Il manifatturiero nel 2010, ma questo dato lo osserviamo in tutte le specializzazioni. Lo vediamo nel manifatturiero, lo vediamo nelle imprese della ristorazione, nel commercio. Il 2010 fu un anno buono. Il 2010 in realtà riprendeva l'Italia. Ah, sì. Poi abbiamo addirittura un più 5,9 nel 2010, imprese manifatturiere, e un meno 5,2 nel 2011. Il 2012 va un po' meglio, questo posso dire già nei primi 6 mesi, stiamo analizzando i dati, va un po' meglio, quindi il manifatturiero sta riprendendo. Certo, cioè siamo intorno, secondo te, come ordine di grandezza rispetto al meno 5,2 del manufatturiero nel 2011, quanto sarà? Meno 3,5, meno 4? Meno 3,2. E questo è già buono, Questo è già buono, perché cosa ci fa capire questo? Che anche in settori come il manifatturiero, eccetera, si sta immettendo tecnologia e quindi stiamo lavorando su segmenti che noi conosciamo. Io questo poi l'ho sempre detto, ma spesso inascoltato. Tutti questi settori possono avere una fortissima evoluzione, purché si metta molta tecnologia e si facciano investimenti. Vediamo il caso del legno. Il legno dato per morto 20 anni fa sta avendo una diffusione pazzesca, proprio perché in realtà adesso si fanno molte cose, no, col legno, dalle case, quindi ogni settore, questo dobbiamo sempre tener conto, sul quale noi abbiamo un know-how migliore del mondo. perché su questi segmenti, su questi settori, la, ad esempio il settore dei metalli, la meccanica, sono settori che hanno avuto veramente, insomma, il nostro paese ha dato tantissimo. Su questo dobbiamo mettere molta tecnologia, dobbiamo investire. Farei una piccola osservazione, però, sempre tornando sul discorso delle piccole, e qui c'è necessità veramente di fare integrazione. Ecco, qui si deve veramente incentivare l'aggregazione tra imprese. Questo è uno dei must di questi giorni, di queste settimane. Se noi non facciamo questo, non facciamo niente. Le imprese hanno reagito, diciamo così, negli ultimi 2 anni, premendo fortemente, perché nella legislazione italiana, dopo la delusione dell'introduzione anni prima dell'idea di distretto, perché poi gli incentivi di distretto, il consolidato fiscale di distretto, i rating di distretto non sono venuti, però 2 anni e mezzo fa la rete di impresa è entrata nel nostro ordinamento. La risposta delle imprese come auto-organizzazione intorno all'idea di rete, non solo più sinergia territoriale, ma per segmenti, è stata abbastanza buona, direi, no? Sì, molto c'è da fare, diciamo, perché noi pensiamo sempre in qualche modo alle imprese finali, no? Invece in realtà dobbiamo lavorare su le imprese di settore, quelle di segmento, quelle che in realtà fanno un semilavorato, i subfornitori, c'è tutta una area sulla quale c'è molto da lavorare e molto da investire. Il paradigma comunque è l'integrazione, diciamo, internazionale dei sistemi produttivi. Questa deve essere la nostra volontà di fare industria, di vocazione industriale, tutto quello che ci vogliamo mettere. Allora, adesso sui problemi di quali sono i problemi quando si nasce con un'idea, ripartiamo poi con Barbara Amate, e invece su come tentare di aiutare a riflettere sui livelli dimensionali di capitalizzazione delle imprese italiane con Franco Barogno, e poi continuiamo con Marco Zanotelli ancora su alcuni dati su questo osservatorio di imprese nel 2011, che, come vedete, sforzandosi di avere un po' di ottimismo, consente di pensare che l'Italia ha ancora forte specializzazione e buoni andamenti. Insomma, 518.000 nuovi posti di lavoro creati da nuove imprese nel 2011 non sono i 650.000 del 2007, ma restano una quota molto molto molto apprezzabile. Ora pubblicità. 9 in punto. Allora, eccoci tornati in diretta. Risposta all'ascoltatore che dice: tiri di coca, parli troppo in fretta. No, parlo troppo in fretta perché effettivamente parlerò un po' più lento, ma in radio serve a tenervi svegli, soprattutto voi che guidate e pensate che chi vi tiene compagnia tiri di coca, avete delle idee così sbagliate che è meglio che parlando veloce vi impedisca di andare fuori strada, perché le vostre parole più o meno questo fanno pensare. Poi altri che dicono: Giannino vergogna, i tuoi DOR sono smentiti dal fatto che l'Italia è più bella e più forte di prima, perché lo spread è sceso. Non so se ascoltate la nostra opinione, è che l'andamento erratico tra quota 420 e 430, dove siamo adesso, e oltre quota 500, dove eravamo di nuovo a inizio di agosto, dipende non dal fatto che sui fondamentali abbiamo risolto qualche cosa, dipende da altre cose. Quindi io i DORS, fino a che esistono i motivi di allarme serio e non c'è una seria strategia di abbattimento del debito pubblico distinta dagli avanzi primari, perché lì bisogna fare meno spesa corrente da retrocedere in meno imposte al lavoro e all'impresa, di cui, come vedete, anche oggi stiamo parlando, penso che l'allarme resterà. Allora, breve pausa con 2 chiamate dai nostri ascoltatori. Massimiliano da Milano, prego Max. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno Giannino, io la chiamavo perché mi riallacciavo al discorso che faceva il dottor Cellini. Sì. Sul problema anche fiscale delle nostre aziende. Noi siamo uno start-upper, quindi di lavoro creiamo nuove aziende, aiutiamo ragazzi a lanciare le loro idee nel mondo internet, quindi tecnologia digitale. Conferma che anche a voi capitano cose come quelle dell'agenzia tributaria alla start-up di cui ha parlato Cellini? Assolutamente sì, noi abbiamo una startup che purtroppo non ha funzionato come doveva, sono stati fatti grossi investimenti e oramai è 2 o 3 anni che sta perdendo, non riesce a come, generare precisiamolo, utili. Può capitare in un rato elevato delle nuove idee d'impresa, non è così non fisiologico. Sì. E lo Stato che vi ha detto fiscalmente? Niente, dopo 3-4 anni ci ha detto che questa azienda, visti gli investimenti che sono stati fatti ancora 5 anni fa, questa azienda deve avere un reddito imponibile di almeno 150.000 euro. Questa azienda ha un fatturato annuo pari a 0, oramai da 2 anni. Io francamente sti 150.000 euro non ho più pari idea di dove andare a prendere. Questo è un grosso problema. Io posso dirle resistere, ma so che non vuol dire niente, perché purtroppo se non si attempera all'obbligo dello Stato cieco e rapace, Poi la somma aumenta. Questa è un'ulteriore conferma del fatto che nel contenzioso tributario bisogna rifondarlo su base di civiltà. Quindi credo che il commercialista o l'avvocato che l'assiste gli abbia detto più o meno la stessa cosa. Capisco che mettere mano a 150.000 euro quando è una startup che ovviamente, se non ha fatto revenue e risultati, è una rapina, questa dello Stato, è un po' dura da buttare giù, Massimiliano. Eh sì, assolutamente, anche perché ho provato a pensare anche a un interpello, però il commercialista mi ha detto che sulle basi, insomma, dei dati che ha a disposizione, dice che un interpello sarebbe sicuramente respinto. Sarebbe sicuramente adesso... respinto. Sì, ma ha sconsigliato di farlo. Mandaci copia e se credi organizziamo anche un altro intervento in trasmissione. Chissà che qualcuno ci senta all'agenzia tributaria per distinguere il caso delle start-up tecnologiche eccetera da chi è evasore ed usore. Non mi sembra così complicato, no? Grazie a te Stefano da Cracovia. Da Cracovia chiama Stefano? Sì, buongiorno Giannino. Beh, è un onore, è un piacere per me sapere che a Cracovia mi ascolta. Sì, giornalmente tramite lo streaming. Cosa la spinge in stream ad ascoltarci e a intervenire? Sì, perché oggi la discussione sulle start-up e sui saldi negativi delle aziende che nascono e muoiono. Sì. Sarebbe interessante invece avere il dato di quelli che decidono di creare direttamente un'azienda all'estero. Nel nostro caso siamo una start-up web, SOS Travel, ci occupiamo di viaggi nell'est Europa e in fase di analisi abbiamo valutato la possibilità di aprire come tour operator in Italia. Se vuole le dico brevemente quello che serve per aprire un tour operator in Italia. Ma idea che avete scartato? Cosa? Idea che avete scartato perché siete andati in Polonia. Sì, abbiamo scartato perché si partiva con 20.000 euro di fideiussione presso la provincia. Sì. Ma adesso mi devono spiegare perché la provincia vuole non una fideiussione, un versamento in contanti o in titoli di 20.000 euro. Oltre alle classiche spese societarie e così via, l'esistenza di un direttore tecnico che necessariamente, essendo chiusi i concorsi, deve essere preso all'esterno. Già. E mi hanno richiesto anche 1.500 euro al mese per mettere una firma da direttore tecnico. Sì. Ma non è finita, c'è la necessità di avere un ufficio aperto al pubblico non condiviso. Noi siamo una startup web, potevamo domiciliarci presso il commercialista, potevamo lavorare da casa i primi mesi e iniziare comunque a fatturare. Lei lo sa per quale ragione non è possibile? Perché il nostro ordinamento immagina che se lei facesse esattamente quello che ha detto, cioè la domiciliazione presso il commercialista, sarebbe uno dei classici segni che direbbero che lei è un evasore e usore. E quindi naturalmente la norma dell'ufficio fisico, che come si può immaginare quando una startup significa immobilizzo di capitale che andrebbe rivolto ad altre cose, è un'altra luminosa prova della lungimiranza e della conoscenza che il nostro apparato tributario dedica a come si fa impresa. L'impresa, questa sconosciuta per lo Stato, questo è il piccolo problema. Stefano, io auguro alla sua impresa naturalmente successo in Polonia. Amerei un paese che non spinge gli italiani che vogliono fare impresa tecnologica, o soprattutto nell'offerta dei servizi che in Italia va potenziata la produttività, all'estero invece che in Italia. Grazie Stefano. E a questo punto, Barbara Labate. Buongiorno. Qui stiamo parlando invece della impensabile eroina di una che dice no, io provo a farla in Italia. Anche qui nell'offerta comparata tramite tecnologia di servizi all'utenza. Che cos'è Risparmio Super, una benzina? Risparmio Super è un'impresa. Ecco. Come dico spesso, fare impresa è un'impresa in Italia. Risparmio Super è un sito internet, è un'applicazione che confronta i prezzi dei supermercati, qualcosa che nessuno aveva fatto mai. Noi possiamo confrontare i voli aerei, possiamo confrontare i mutui, possiamo confrontare le assicurazioni o le tariffe. Nessuno aveva pensato di mettere a confronto i prezzi dei supermercati, quindi dare al consumatore la possibilità di scegliere, sapere a priori il prezzo di un prodotto o della propria lista della spesa e quindi scegliere con consapevolezza. Vabbè, in tempo reale un ascoltatore dice ma che, questa è pagata dai supermercati perché gli dicono i prezzi e frega la gente? Assolutamente no. Gli italiani subito hanno fiducia nei confronti dell'offerta di servizi, come si vede. Ma come, io dico che stiamo facendo un'impresa, un servizio, e lo so, e mi dicono vabbè pazienza, a me dicono che sono un somaro da sempre, io sono qui che rispondo, però no, in realtà l'idea... Quale catena ti paga? Dì la verità, Legacoop. Abbiamo delle catene che fanno pubblicità, come lo fanno sui giornali, ma i dati sono reperiti autonomamente e in modo indipendente, quindi non ci pagano per darci i dati, sono veritieri, sono dati pubblici e aggiornati in tempo reale. Risparmio Super ti chiede semplicemente dove sei. Quindi ti localizza e ti dà un servizio di prossimità. Esatto, ti dà un servizio in prossimità, così non hai bisogno di prendere la macchina, ti dico quali sono i prezzi delle offerte nei negozi attorno a te, tu fai una lista della spesa e poi ti dico, beh, oggi ti costa meno questa insegna, domani domani un'altra. Siete operativi e quanto tempo è passato dall'idea alla realizzazione? Dall'idea è passato un anno e mezzo, due anni. Anche noi siamo partiti in due, quindi non strutturati. I capitali li avete messi voi, li ha messo un operatore specializzato, li ha messi una banca, lo dico con un punto interrogativo un po'. E li abbiamo messi noi, quindi soldi risparmiati. Ah, ma eroi veri allora. Sì, sì, eroi veri. Per un anno e mezzo io non ho preso stipendio per mettere i soldi, quindi pagavo gli stipendi degli altri, quindi dei tecnici, per riuscire club di matti, però. Per riuscire comunque a fare questa impresa. Dopodiché abbiamo avuto comunque l'interessamento di diversi fondi di investimento, poi c'è stato un investimento nella nostra startup che ci ha permesso di passare da 2 a 12, quindi abbiamo creato lavoro, siamo una delle microimprese. Attento che il numero 12, un piccolo imprenditore di 2000 anni fa, si rese conto che va bene che non superava i limiti dei 15 nel mercato del lavoro, però ce n'era uno sbagliato e l'impresa è andata bene, da 2000 anni si chiama il cristianesimo, però all'inizio il fondatore lo hanno crocifisso, cioè questo, quindi forse arriva a 13, va, perché 12 non vorrei che ci fosse un siamo lì lì. Ecco. Magari lei ha 33 anni. Ecco, beh, a quel punto, però a questo punto la facciamo camminare sulle acque, però per così dire, no. Col fisco? Casi tutto come bene. Questi? No, tutto bene. Noi per ora tutto bene. Tracciamo le dita. Fatturiamo, quindi insomma abbiamo anche un. Ma per te era il primo tentativo di fare impresa o c'ha il bernoccolo? Da... No, il bernoccolo. Io vi posso dire che Barbara Labatte gli darei non più di 22 anni come aspetto, però. Però no, ho fatto anche altre imprese in precedenza nel mondo mobile, e quindi comunque. Come? Una seriale. Sì, una seriale. È una recidiva, in termini penali si dice così. Esatto. E spero di farne anche altri in futuro, perché non risparmio sempre. Creare impresa, ci ha messo soldi suoi, c'è già margine da quanto? Da quando siete andati in margine positivo? Allora, non siamo ancora in margine positivo, ma ci stiamo lavorando. State avvicinando al break-up? Ci stiamo avvicinando. Ci stiamo avvicinando al break-up. Con le banche? Mai avuto rapporti e non ne voglio avere. Ale! Scusate, un piccolo coro di... Allora, prima di tornare a Marco Zanotelli, sono arrivato al punto banca perché voglio sapere da Franco Baronio, qui stiamo parlando Bain, grande società di consulenza nel mondo sia del credito che delle imprese, grande conoscenza comparata, è un gruppo internazionale, delle caratteristiche dimensionali della capitalizzazione e patrimonializzazione. Nel nostro paese la soglia dimensionale, la patrimonializzazione sono una delle due cose tradizionalmente considerate il freno, la negatività. Avete sentito che Zanotelli diceva, guardate che in realtà le nascite ci sono nei settori maturi, continuano a esserci, il problema è la continuità, è questo che bisognerebbe concentrarsi su quello. Franco, nella tua esperienza, Baronio, qui il colpevole del non pensarci abbastanza sono i piccoli imprenditori, ma come fanno se quelli nascono con poco patrimonio? Sono le banche che non sono abbastanza specializzate e adesso sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte, hanno problemi di ricapitalizzazione, eccetera, non possono certo dare troppi soldi, anzi non ne danno quasi, alle imprese, e lo Stato che non riesce a capire che i pochi incentivi vanno razionalizzati e concentrati tutti qua. Insomma, se dovessimo dire dove ragionevolmente si può fare qualcosa per capitalizzazione soglia dimensionale, tu che soluzione indicheresti? Ma allora, innanzitutto io sarei molto cauto a parlare di negatività quando si parla di impresa. Impresa in Italia vuol dire eroi. Il tasso di natalità nel 2011, anno terribile, testimonia questo eroismo, questa volontà di fare impresa. Ed è bene che le imprese nascano piccole, perché poi diventano grandi. Il problema è appunto come accompagnarle in questa crescita dimensionale. Qui si intrecciano evidentemente tante considerazioni, importante anche un contenuto culturale, per cui in Italia è importante vivere in provincia, costruire la propria azienda in provincia, realizzare il proprio successo dove si è nati, e questo di fatto limita un po' di mobilità sociale, di capitale. Unitamente a questo, evidentemente ci sono atteggiamenti anche negativi del passato rispetto a un certo atteggiamento comunque verso il fisco, che evidentemente non possiamo nasconderci. Detto tutto questo, manca, continua a mancare dal nostro punto di vista una visione per l'impresa centrale nella politica. Il fatto di far crescere l'impresa è centrale, perché è centrale che l'impresa vada all'estero, e per andare all'estero e per stare all'estero serve dimensione. Serve dimensione, la crisi ha insegnato, ad esempio, per conquistare i canali distributivi. Per costruire canali distributivi bisogna mettere in piedi evidentemente una capacità di investimento, perché prima di pagarsi una rete distributiva in America, piuttosto che in Cina, piuttosto che in altri paesi, servono anni. Allora, cosa fare? Ma sicuramente mettere a fattor comune una serie di contributi, non uno soltanto. Innanzitutto le associazioni di categorie, Confindustria, credo che si stia impegnando molto e si è impegnata storicamente in questo, non basta mai, cioè il fatto di sviluppare una cultura di impresa sulla dimensione, sull'aggregazione, sul facilitare i momenti di incontro in tante filiere industriali italiane. Sono d'accordo col professor Zanotelli, inutile necessariamente ricercare l'innovazione e il sofismo anche nel settore tradizionale, nel settore alimentare ad esempio. Nella filiera del vino ci sono n settori dove evidentemente l'unione fa la forza. Un esempio della filiera del vino, so quella piemontese, mi tocca dire che siamo ancora alla preistoria. Cioè, faccio un esempio concreto, che i maggiori produttori di Barolo e i maggiori produttori di Brunello abbiano messo più o meno 60 anni dal secondo dopoguerra per capire che forse la strategia di promozione all'estero e di distribuzione poteva essere comune, è la dimostrazione di come a volte la cultura tribale, bianchi, neri, cerchi, donati, guelfi, ghibellini eccetera, in Italia continua a dominare, e su questo i francesi ci fanno, perdonate, un mazzo così. Sono d'accordo, non possiamo però volere, voglio dire, la moglie ubriaca e la botte piena, no? Nel senso, non possiamo volere degli eroi capaci, no, però, no? Tu dicevi, volitivi, e il tempo hai indicato stesso, un no? settore sul quale secondo me si può fare molto di si più. Può fare molto, quindi credo che ci sia sicuramente un'attività di cultura, di azienda legata alla Confindustria, c'è sicuramente un'attività legata evidentemente al settore bancario, dove un'azione più coordinata ad esempio nei confronti anche dei confidi può favorire una maggiore selezione, una maggiore aggregazione dei fenomeni di impresa. C'è sicuramente un contributo dello Stato che può essere maggiormente rafforzato, soprattutto nei confronti dell'offerta di credito, in un momento complicato come questo, con strumenti che sono in parte stati attivati, per carità, perché il plafond creditizio sulle piccole e medie imprese, la garanzia di secondo livello del fondo per lo sviluppo economico sono elementi importanti, probabilmente ancora da rafforzare e ancora, soprattutto ancora da rafforzare. Indirizzare. Ecco, indirizzare secondo me anche io sono, perché il rafforzamento, per esempio, Intesa e Unicredit ha annunciato importi di miliardi in teoria per l'impresa italiana eccetera eccetera. Il problema è che se non li indirizzi, secondo me, quegli annunci sono un po', lo dico per carità, i manager in ascolto di Intesa Unicredit non equivochino, non segnalino all'ufficio legale la necessità di farmi una causa. Sono un po' truffaldini, perché tendono a confondere il ripristino ordinario del monte crediti nel corporate con l'idea che sono flussi aggiuntivi. Non sono flussi aggiuntivi, però sono risorse importanti. Il problema è indirizzarle. Allora, noi adesso abbiamo il classico minuto per l'informazione sul traffico e poi torniamo con ascoltatori e Zanotelli. 9 in punto, la versione di Oscar. Posso rassicurare gli ascoltatori che me lo chiedono, che questo che sentite è il mio gatto Artù, ohimè purtroppo non c'è più e lo ricordiamo tutte le mattine, gli altri tre in famiglia stanno bene, grazie, come c'è chi regolarmente si informa, mi fa piacere che la vostra simpatia vada anche ai miei gatti, soprattutto perché mi sopportano quasi meglio di mia moglie, ma questo non è complicato, mia moglie ha un problema un po' più complesso, nel senso che io coi gatti sono più rispettoso di quanto sia poco rispettoso nei suoi confronti. Margherita, scusami. Detto questo, chiede un'ascoltatrice: come mai alcune catene di supermercati hanno prezzi diversi a seconda della zona? Attenti, perché qui c'è innanzitutto, diciamo, c'è un margine che viene praticato. Queste le politiche di prezzo sono una questione interessante sulla grande distribuzione, perché da una parte ha senso, è ovvio, come potete immaginare, che il margine di oscillazione, che però dovrebbe essere di pochi centesimi per fascia di prodotto, fino ad arrivare al massimo a una decina, una quindicina, visto l'elevato margine che ha la grande distribuzione, per tipo di prodotto, a seconda delle curve di consumo e profilo del portafoglio del consumatore di quella particolare area. Quindi questo spiega perché nell'ambito della stessa catena la diversificazione delle politiche di prezzo risponde all'ottimizzazione, come potete immaginare, del circolante, cioè dello scaffale. Attenti però, perché se voi vi rendete conto che il margine non è di qualche centesimo, ma è molto significativo, allora varrebbe la pena di approfondire. Ho ragione o no, Barbara? Assolutamente sì, addirittura anche a Milano diverse zone o quartieri hanno prezzi diversi, questo perché comunque il profilo dei consumatori della zona è diverso, sono quartieri più o meno ricchi. È anche vero che c'è anche a livello nazionale, il nord Italia ha dei livelli di prezzo, certo, perché sono presenti dei player, quindi la presenza di alcune insegne tende a far abbassare i prezzi o comunque si vanno a livellare verso il basso. Al sud Italia l'assenza di determinate catene tende invece a posizionare i prezzi su livelli più alti. Quindi da una parte è un meccanismo fisiologico del mercato che si adegua ai profili di consumo per reddito disponibile, dall'altra, se segnalate invece, se vi rendete conto che i divari sono troppo forti, segnalatelo, che faremo il nostro dovere per capire e chiedere all'azienda stessa. Qualche telefonata. Luca da Bologna. Luca, dici. Oscar, complimenti, sei il numero uno. Allora, sì, no, sì, t'ho chiamato perché uno. Prima basta, ero in macchina. Basta che non sia la graduatoria dei fessi, però va bene. No, allora. Luca. Allora, no, ero in macchina, mi sono venuti i capelli dritti perché prima un ascoltatore ti ha detto che apriva una startup web e parlava della fiscalità italiana. Allora, sì. Io sto aprendo una startup web dopo anni che ho fatto una rivista legata allo spettacolo in Italia, stiamo aprendo il primo social network al mondo dedicato agli artisti, alle modelle, agli operatori dello spettacolo, si chiama allcasting.tv, ma io lo apro all'estero, perché io non ho un prodotto fisico da vendere in Italia e non solo, l'Italia è pericolosissima da un punto di vista anche di leggi sul web, tant'è vero che il .it, il dominio.it non si compra più, si prende sempre il .com o il .tv, cioè abbiamo anche un problema di non solo di fiscalità ma anche di leggi. Faccio un esempio, se tu carichi un video su YouTube, se YouTube avesse avuto la sede in Italia, era corresponsabile anche dei contenuti, mentre invece tutte le cause che poi non ha perso erano legate al fatto che in America c'è una legislatura diversa sul web. E poi ripeto, Luca, io non vendo Luca, prodotto... Luca, ho capito il problema, ti segnalo che io stesso ne parleremo tra un po' di settimane, ho in mente di fare una cosa, i miei avvocati da una parte mi consigliano i radicamenti di una delle società all'estero per quello che stai parlando, dall'altra ti faccio un solo esempio, Massimo Mucchetti sul Corriere della Sera da anni dice che quelli che fanno come te, che vorrei fare io o come citavi Yahoo, sono evasori ed elusori perché devono essere radicati nel nostro ordinamento e pagare le tasse in Italia, quindi attenzione che questa è una frontiera delicata che riguarda poi la proprietà intellettuale, la libertà di radicamento tra ordinamenti diversi, è una questione aperta perché una parte crescente non solo della società italiana che non conosce le cose, ti faccio l'esempio, il Corriere della Sera inizia a pensare che l'esercizio di questo arbitraggio, ma in piena linea con gli ordinamenti, significhi invece essere troppo disinvolti e quindi tu poni un problema, ho capito che l'apri in Spagna, però insomma non è così facile. Barbara, qui c'è un'ascoltatrice che dice, sono andato a vedere il sito Risparmio Super, ma non funziona. Come non funziona? Non lo so, ripeto un po', il sito si chiama di preciso? Risparmiosuper.it. Risparmiosuper.it, provateci e fateci sapere. Luca, dalla provincia di Vercelli, prego Luca. Buongiorno dottor Giannino, grande applauso al suo operato e ribadisco sia per assonanza veniamo col dunque, nome veniamo a dunque veniamo numero dunque. Uno ascolti, sì. Io ho costituito una società che si occupa di trading su materiale plastico esattamente 7-8 mesi fa, sono stati tutto 7-8 bene mesi o problemi? Come? Tutto bene o problemi? Rapido. Tutto bene, nessun problema. L'unico problema di cui non ho mai sentito parlare neanche in trasmissione da lei è che è rischio credito. Oggi io va ho bene. Preso un Luca, insoluto aspetta perché ti devo interrompere, se no non faccio concludere il mio amico Marco Zanotelli, a cui ho già appuntamento, se sono vivo io, lui di sicuro, anche l'anno prossimo. Concludiamo con una pillola di un minuto e mezzo. Beh, allora direi che sostanzialmente il rapporto di quest'anno ha evidenziato quindi le nuove imprese. Nuove imprese che si evidenziano in tre settori, per quanto diciamo la ricerca conclusiva, in particolar modo proprio sul manifatturiero, mi ricollegava prima, quindi l'alimentare, prodotti in metallo e abbigliamento. Questi 27%, 16%, 13%, sono grandi numeri questi qui. Ricordiamoci sempre che noi siamo i più grandi produttori di tubi in metallo al mondo. Quindi diciamo, questi sono alcuni segmenti sui quali bisogna lavorare. La mia preoccupazione qual è? Il mercato domestico. Quello sì, e soffriremo nei prossimi due anni. E continueremo purtroppo a soffrire, ma la presenza di 180.000 eroi che hanno prodotto 500.000 occupati, magari tutto di quello di cui ci siamo occupati, dal fisco al problema, eccetera, la presenza di persone come Barbara che sono recidive nell'aprire nuove imprese e fare occupati, e la presenza di persone come Baronio che continuano a dare consulenza alle piccole imprese italiane che vogliono credito, testimonia che non siamo qui per niente. Ce la possiamo fare, basta che ci tiriamo sulle maniche. Appuntamento a domani! Radio 24, la passione. Si sente.